2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, oggi è il 4 maggio 2013, benvenuti o bentornati, questo è il programma di Radio 24 che racconta come la tecnologia ci cambia la vita, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi in regia c'è Paolo Corleone che salutiamo, bentornato anche a te, Giorgio De Luca ci aiuta, anche lui è in regia e poi abbiamo al centralino Micol che potete contattare al nostro numero verde 800240024 per parlare con noi di che cosa? Di sistemi per archiviare online i nostri file. Ne parleremo nella seconda parte, ma potete già chiamare per fare le vostre considerazioni o le vostre domande. Potete utilizzare anche tutti gli altri strumenti che la rete mette a disposizione, Twitter, Facebook, poi magari vi ricordiamo anche i nostri indirizzi, oppure gli SMS 349-238-6666. Il governo ha completato la squadra e il viceministro che potrebbe avere una delega sull'agenda digitale, molto importante, potrebbe essere Antonio Catricalà, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Monti, anche se non è ancora detta l'ultima parola, c'è ancora un dibattito molto acceso all'interno del governo, vedremo e speriamo già che nei prossimi giorni ci sia un chiarimento sulle deleghe che saranno necessariamente condivise con altri ministeri. Sicuramente potrei dire, dalle informazioni che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, che buona parte delle competenze, almeno sul settore delle telecomunicazioni, dovrebbero essere in carico ad Antonio Catricalà, che è vice ministro al Ministero per lo Sviluppo. Beh, sicuramente tra i dossier più importanti da affrontare subito, o comunque molto velocemente, quello sull'eventuale scorporo della rete Telecom e la stessa fusione, anche in questo caso eventuale, ancora ipotetica, con Tre. Se ne parla, ne abbiamo parlato anche a 2024, abbiamo sollevato qualche dubbio su questa ipotesi societaria di fusione tra Telecom Italia e Tre. L'argomento sarà oggetto di un consiglio di amministrazione di Telecom in programma l'8 maggio, ma come abbiamo più volte detto e sottolineato, sarebbe opportuno che anche la politica dica una parola su questo assetto, visto che Telecom possiede la principale rete di accesso ad internet. E un conto è se la fusione viene fatta pensando anche ad uno scorporo eventuale della rete, che tornerebbe a diventare una rete pubblica con parità di accesso per tutti i concorrenti e per la stessa Telecom, un conto se la rete invece rimane all'interno di Telecom. Insomma, gli scenari sono i più vari, non è ancora detto nulla, c'è un grosso dibattito tra gli addetti ai lavori, tra gli esperti, ma vedremo, probabilmente questa settimana, la prossima settimana, ne sapremo qualche cosa in più. Allora, per chi ancora non ha compreso quanto fondamentale e importante per lo sviluppo del paese sia investire sulla tecnologia, sulla diffusione di internet, sul sostegno alle start-up, che spesso sono fatte da giovani, sui servizi digitali, sempre nella pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato, eccetera, eccetera. Allora, ricordiamo che la Commissione europea stima, ed è una stima già fatta qualche mese fa, allora stima che se venissero implementate tutte le azioni dell'agenda digitale, e quando parliamo di agenda digitale pensate che quella europea elenca almeno 101 azioni, quindi ci sono un sacco di cose che debbono essere fatte. Allora, secondo le stime della Commissione europea, il prodotto interno lordo di tutta l'Unione a 27 crescerebbe del 5% nei prossimi 8 anni. Quindi diciamo che il conto è stato fatto a partire dal 2012-2020, parliamo dello 0,6-0,7 anno, quindi insomma comunque un contributo, visto i tempi, piuttosto importante. Non so quali altri settori, se ben alimentati e ben curati, possano dare un contributo al prodotto interno lordo dello 0,6-0,7 anno, e creerebbe tutto questo movimento assieme alla crescita dell'economia digitale, insomma, verrebbero creati quasi 5 milioni, quindi 4,8 milioni di posti di lavoro. C'è comunque una buona notizia, perché proprio ieri il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato ha sottolineato la necessità di riprendere in mano al più presto l'agenda digitale. ha detto ad un convegno: è imbarazzante che all'estero la rete wifi funzioni dappertutto, invece in Italia per mancati investimenti è difficilissimo trovarla persino in quei siti dove dovrebbe essere naturale. Allora, l'importante è che non si confonda però la diffusione del wifi con l'agenda digitale, che è una cosa un po' più complessa, un po' più coordinata e strutturata, e che ha una visione anche dello sviluppo del paese. Insomma, il wifi è una delle tante cose, non è nemmeno elencata tra i 101 punti, insomma è una delle cose che magari vanno fatte solamente poi in alcuni luoghi, non pensiamo che di risolvere i nostri problemi mettendo wifi ovunque. Tra l'altro devo dire che, adesso non so quanto abbia viaggiato recentemente Zanonato, non è proprio vero che la rete wifi all'estero funzioni dappertutto. Insomma, sicuramente ci sono alcuni paesi dove la situazione è meglio rispetto all'Italia, però non esagererei col dire che all'estero le cose vanno necessariamente meglio rispetto al nostro paese. A proposito di politica e di internet, dobbiamo anche questa settimana chiamare i nostri esperti, prendendo spunto da alcune dichiarazioni, per puntualizzare e spiegare come stanno in realtà le cose. Abbiamo fatto recentemente anche, sempre a proposito di wifi, quando qualcuno ha sparato una delle più grandi bufale degli ultimi mesi, cioè dire: prendiamo le antenne della Rai per diffondere il wifi in tutta Italia. Abbiamo spiegato che non si può fare, o comunque potremmo pensare di farlo utilizzando altre tecnologie, ma insomma abbiamo spiegato come stanno le cose. Prima di parlare bisognerebbe essere esperti della materia, e noi chiamiamo i nostri esperti. Ce n'è una lista piuttosto variegata all'interno del Sole 24 Ore, fuori dal Sole 24 Ore, che chiamiamo settimana dopo settimana. Allora, la puntualizzazione di questa settimana riguarda alcune dichiarazioni, prendiamo spunto da alcune dichiarazioni della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che in un'intervista a Repubblica denuncia l'elevato numero di offese, minacce di morte, critiche di cui lei è oggetto. Allora, diciamo innanzitutto che su questo prendiamo posizione di distanza anche noi, tutto ciò è da condannare fermamente, ma questo non è il punto. Nell'intervista ad un certo punto la Boldrini si domanda e dice: mi domando se sia giusto che una minaccia di morte che avviene in forma diretta o attraverso una scritta su un muro sia considerata in modo diverso dalla stessa minaccia via web. Stanno proprio così le cose? Sono considerate in modo diverso? E soprattutto il dibattito che ad intervalli più o meno regolari viene sollevato sulla necessità di regolare in modo specifico la rete internet è un dibattito che ha senso? Saluto Guido Scorza, benvenuto, meglio bentornato a 2024. Grazie mille per l'invito, buongiorno. L'avvocato Guido Scorza è esperto della rete internet, di diritto della rete internet, da tempo se ne occupa, è diciamo uno di quelli che su internet dibatte a volte preoccupandosi, ma posso dire anche auspicando che ci sia questo dibattito, ma che in un certo modo maturi, cosa che forse non vediamo tutti i giorni. A volte ci sono delle cadute del dibattito, dico bene? Ma quella di ieri, le dichiarazioni di ieri della terza carica più alta dello Stato, purtroppo lasciano ritenere che la situazione in questo momento sia esattamente questa. Il Presidente della Camera dei Deputati ha parlato di un fenomeno che probabilmente non ha presente in maniera puntuale, e ha lamentato esplicitamente una differenza di trattamento rispetto a condotte illecite, qualora queste condotte si consumino nel cosiddetto mondo reale piuttosto che nel web. Ecco, è una inesattezza piuttosto grave dal punto di vista giuridico, che ovviamente è politicamente preoccupante, perché affermare quello che ha affermato l'onorevole Boldrini significa un istante dopo, come puntualmente sta accadendo, correre ad invocare nuove leggi speciali per il web. E queste sono le parole della seconda carica più alta dello Stato, perché ieri Piero Grasso ha detto esattamente: serve una legge speciale per il web, perché sul web si consumano troppi reati. Esatto, chiariamolo, quindi approfittiamo per chiarire in modo molto semplice che su internet le vigono le stesse regole che esistono per la vita reale. Allora, qua stiamo parlando di reati d'opinione, se non sbaglio. Quali sono queste regole? Che cosa può succedere online, così come può succedere nella vita di tutti i giorni? Nel nostro ordinamento esiste un armamentario piuttosto vasto di fattispecie di reati di opinione, ma non solo, che si consumano frequentemente anche via web. Solo per fare alcuni esempi, si può parlare del reato di diffamazione o dell'apologia di reato, cioè difendere pubblicamente la posizione di qualcuno che commette un reato. C'è poi l'incitamento all'odio razziale, c'è lo stalking, c'è il furto d'identità o piuttosto la sostituzione di persona, quando mi impossesso del nickname o del profilo su un social network di un soggetto diverso. C'è l'ipotesi della violazione di corrispondenza, cui pure fa riferimento l'onorevole Boldrini parlando di quanto accaduto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. C'è l'accesso abusivo a un sistema informatico, l'intercettazione di comunicazioni telematiche, e ci sono poi decine e decine di altri reati legati alla violazione della privacy. Ecco, c'è un universo normativo che lì ha presidio che anche la vita sul web si svolga nel rispetto delle stesse regole che valgono da tempo nel mondo reale. Non mi sentirei di parlare di aporie o di vuoti normativi o di esigenze di nuove regole, onestamente. Sì, quindi come capita in altri ambiti e in altre occasioni, le regole ci sono, basta applicarle, o basta, in caso di minaccia o altro tipo di offesa, andare da un avvocato, dal magistrato e denunciare la cosa, giusto? O prima ancora dalla polizia, attraverso tra l'altro anche la possibilità che oggi esiste di fare molte di queste denunce semplicemente attraverso il sito internet della Polizia di Stato. Per cui ecco, è un problema di applicazione delle regole, forse talvolta c'è anche, guai a negarlo, un problema di coraggio nella denuncia, ma non parliamo di peculiarità legate a quello che accade online. Ecco, è un contesto e forse anche una posizione di debolezza nella quale ci si può sempre trovare anche nella vita reale, purtroppo. Sì, ma nella vita di tutti i giorni, visto dal punto di vista di un avvocato che si occupa di questi temi, capita spesso che nei tribunali italiani si dibattano temi, cause che sono nate sul web, o è una cosa ancora rara? Pur in presenza di regole che permettono appunto di difendersi, abbiamo detto. È sicuramente un fenomeno che sta crescendo in maniera direttamente proporzionale alla diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione. Direi che per alcune fattispecie di reato, quale la diffamazione o il furto d'identità o la violazione della corrispondenza telematica, siamo ormai a un'elevatissima casistica. In altre ipotesi stiamo andando in quella direzione, c'è una ricorrenza crescente, ma probabilmente il fenomeno dal punto di vista giudiziario non è ancora maturo, perché non appartiene ancora al quotidiano, l'esperienza di tutti gli uffici giudiziari, ma insomma la direzione è inesorabilmente quella. Possiamo dire che però c'è una mancanza forse di cultura digitale, non so se chiamarla così, da parte di molti utenti che forse non hanno chiaro che su internet, su Facebook, in altri social network, nei blog, scrivere una frase, magari questa frase è un'offesa o addirittura ancora più grave, una minaccia, addirittura minaccia di morte, eccetera, eccetera, è un reato. Cioè, forse ci sono molte persone che credono che su internet si possa scrivere quello che uno vuole, così come quando siamo al bar, a parte che anche al bar siamo, come dire, passibili di denuncia, però forse c'è mancanza di questa consapevolezza, o addirittura mancanza di consapevolezza del fatto che la polizia riesce a intercettarci, o comunque riesce a risalire a noi utenti, persone con nome e cognome, che abbiamo magari scritto una frase su Facebook. Ma c'è certamente di base, e i fatti raccontati dall'onorevole Boldrini lo raccontano, un'assenza grave di cultura, appunto, e basta, di cultura della comprensione, del dialogo multirazziale, forse del rispetto degli opposti sessi e delle libertà altrui. Questo c'è certamente. Poi c'è sopra questo, e quindi è, come dire, un secondo livello di analisi che certamente si riscontra, una mancanza di cultura o di alfabetizzazione digitale adeguata, per cui talvolta in realtà il web restituisce la percezione della prateria sconfinata nella quale ci si può permettere delle libertà che altrove non ci si permette, con una idea di impunità che non corrisponde affatto a quello che poi accade nella pratica, perché per fortuna le forze dell'ordine dispongono di strumenti idonei nella più parte dei casi, certamente non nella totalità, ad identificare gli autori di determinate condotte e quindi ad imputare loro le responsabilità che meritano. Sì, sì, devo dire che poi ascoltando 2024 molti ascoltatori avranno capito che sì, è vero che a volte qualche personaggio molto bravo tecnologicamente riesce a sfuggire, però notizie di tutte le settimane vengono beccati su internet, vengono messi in galera e spesso condannati anche noti hacker, noti o per meglio dire malicious hacker, noti leader di alcuni movimenti di rete. Quindi diciamo che le armi ci sono, le regole ci sono. Quindi ricapitolando, possiamo dire che se io oggi pomeriggio vado su internet, su un social network e minaccio di morte Guido Scorza, tu puoi andare, diciamo, tu sei già un avvocato, quindi sei già avvantaggiato, però ti puoi rivolgere alla polizia e la polizia mi prende, insomma. Può certamente, nella misura in cui dall'altra parte chi mi ha minacciato non abbia utilizzato accorgimenti particolari per molto sofisticati, però che sono identità, esatto, assolutamente molto sofisticati o comunque non appartenenti in genere, insomma, diciamo pure che la più parte di questi reati di opinione si commettono in maniera quasi istintiva. Sono arrabbiato davanti al mio muro sul social network e scrivo parole pesanti all'indirizzo. Tra l'altro è più facile intercettare uno che scrive su internet piuttosto che uno scrive con una bomboletta spray su un muro, oppure spedisce una lettera anonima fisica, una lettera fisica. Non esiste nessun dubbio sul fatto che su internet si lasciano più tracce di quelle che si lasciano per strada, che poi queste tracce permettano sempre di arrivare all'autore della condotta, questo evidentemente non è dato saperlo, ma esattamente come non è dato saperlo per il ragazzo che si incappuccia e che va a imbrattare un muro con scritte offensive verso un'etnia o verso un sesso. Sì, sì. Questo ci conferma, diciamo così, una sorta di ignoranza della rete da parte della politica in generale, che tra l'altro dovrebbe parlare di questi temi, che sono anche come dire, un buon modo per far crescere la cultura digitale, ma dicevo, parlarne in maniera strutturata, strategica, pianificata, non solo quando uno viene toccato nel vivo della propria vita. Ma al di là di questa parentesi, volevo chiedere se esiste tuttavia tra gli esperti un dibattito su questo tema, perché effettivamente, e su questo devo dire che bisognerebbe meditare, internet ha favorito un'esplosione di questi reati, cioè c'è tanta gente che scrive offendendo di qua e di là. A questo si può porre un problema, o come alcuni dicono, perché c'è anche questa posizione, questa è internet e lasciamo che internet si sviluppi così come la conosciamo oggi. Ma direi che il problema del cosiddetto hate speech, delle espressioni di odio online, è un fenomeno che è allo studio della comunità internazionale ormai da alcuni anni. Uno degli ultimi punti di arrivo di questa riflessione in ambito internazionale è certamente rappresentato da un rapporto presentato proprio alle Nazioni Unite dal relatore speciale per la libertà di informazione nel dicembre del 2012, e il relatore speciale in quella occasione disse che la cura migliore, il rimedio migliore che si sentiva di suggerire a tutti i paesi contro l'hate speech, contro le espressioni di odio online, era quella di promuovere la libertà di informazione e il dialogo attraverso internet per emarginare i più facinorosi. Nella stessa raccomandazione il relatore speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue, scrive espressamente che le leggi, soprattutto quelle speciali per l'online, devono essere l'extrema ratio, l'ultimo rifugio dei singoli stati, che in ogni caso queste leggi devono rispondere a tre principali requisiti. Innanzitutto non devono mai abilitare nessun governo a chiedere ed ottenere la rimozione di un contenuto in assenza di un ordine della magistratura. Devono escludere radicalmente ogni responsabilità per gli intermediari della comunicazione, quindi per i soggetti privati che veicolano i contenuti altrui, e in terzo luogo devono abilitare la possibilità di dialogo attraverso internet anche in maniera anonima. Ecco, questo è quindi, diciamo, il punto attuale, che ci piaccia o non ci piaccia, non certamente definitivo, ma è il punto di arrivo attuale della riflessione internazionale su sul fenomeno al quale di fatto si riferiscono le parole di ieri delle due più alte cariche dello Stato. Dunque ci fermiamo per un minuto, chiedo a Guido Scorza di rimanere con noi, ho un'ultima domanda tra poco. 2024. Sono le 15:47 minuti, il nostro numero verde per chiamarci in diretta, soprattutto tra poco nella nostra seconda parte, quando parleremo di sistemi di storage online, si dice tra gli esperti, ma noi traduciamo dicendo sistemi per archiviare i nostri dati su internet. È con noi Guido Scorza, con il quale stiamo parlando di leggi e web, per ribadire che il web non è un ambiente a parte rispetto alla vita di tutti i giorni, le stesse regole che valgono nella vita di tutti i giorni valgono anche sul web. Scorza, un'ultima domanda, le dotazioni sia tecnologiche che di personale degli organi di polizia vari, allora in questo caso naturalmente buona parte di quello che delle indagini che debbono essere fatte sulla rete internet in caso di illeciti sono fatte dalla polizia delle comunicazioni, però ci sono anche altri organi di polizia che possono indagare sulla rete internet, ad esempio la Guardia di Finanza, ma anche i carabinieri, eccetera, eccetera. Allora, le dotazioni tecnologiche sono adeguate, sì o no? Io non dubito che se lo chiedessimo alle forze dell'ordine ci risponderebbero che naturalmente qui, come in tutti gli altri ambiti, sarebbe sempre opportuno avere più risorse umane e più infrastrutture e più tecnologia. Quel che è certo è che la polizia delle telecomunicazioni è ormai da anni una eccellenza italiana della polizia di Stato, e che uomini e risorse della polizia delle telecomunicazioni hanno garantito negli ultimi anni l'esecuzione di operazioni importanti nello spazio pubblico telematico italiano e non, per cui direi probabilmente non è un'emergenza, meglio sarebbe ovviamente per qualsiasi paese sempre poter disporre di più forze dell'ordine e di più risorse investigative, però probabilmente non è una emergenza italiana di questo momento. Bene, grazie all'avvocato Guido Scorza, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Adesso parliamo di tablet e di computer. Questa settimana IDC, la società di analisi IDC, ha pubblicato un rapporto sui dati di vendite dei tablet che crescono contemporaneamente, l'abbiamo commentato anche in altre puntate, calano le vendite di PC. Si dibatte, si discute se esiste un effetto sostituzione, sicuramente in parte esiste, ma sappiamo tutti che comunque il computer per fare molte delle cose che dobbiamo fare lo dobbiamo avere. Penso che una vita senza computer, solo con tablet e smartphone, sia un po', non dico difficile, però insomma, alla fine ci si scontra con alcune cose che per farle e farle bene necessitano di un PC. Comunque, come vanno le vendite? Partiamo dai tablet. Quanto cresce il mercato? Ne abbiamo parlato con Sergio Patano, che è analista di IDC in Italia. Il mercato dei tablet sta crescendo ed è una delle poche isole felici del mondo IT, in quanto a livello mondiale è cresciuto nell'ultimo trimestre di oltre il 140%, che vuol dire avere venduto nel corso del primo trimestre 2013 tanto quanto aveva venduto nel corso del primo semestre dell'anno precedente. I principali brand penso li conosciate tutti. Abbiamo in testa alle vendite Apple col suo iPad, che ha una crescita del 65% e uno share di circa il 40%. Al secondo posto tallona Samsung, che con un share di meno della metà, ma che ha una crescita che supera gli oltre il 200%. Samsung potremmo dire è il rappresentante più significativo del mondo Android. Poi vedo nella vostra classifica che c'è Asus, Amazon che cresce del 157%, che però è ancora un po' arretrata, quindi potremmo dire che Amazon non ha fatto un grandissimo successo con il suo Kindle Fire. Non ancora, anche perché dal mio personale punto di vista si porta ancora dietro il fatto di essere percepito essenzialmente come un e-reader e non ancora come un tablet vero e proprio, anche se le potenzialità e le qualità ce le ha tutte per poter diventare uno dei leader all'interno del mercato dei tablet a livello mondiale. Abbiamo detto che questo è un mercato che cresce. Giusto per avere un punto di riferimento, quanti sono i tablet che sono stati consegnati nel primo trimestre dell'anno? Nel primo trimestre del 2013 sono stati quasi 50 milioni di pezzi consegnati con, appunto, dicevamo, con i primi due vendor che sono la Apple e Samsung, che insieme hanno qualcosa come oltre quasi il 60% del market share. E questo è il mercato dei tablet. Che cosa succede invece se guardiamo al mercato dei computer? Stiamo parlando naturalmente sia di computer fissi che di computer portatili. Allora, il mercato dei PC client è calato di quasi il 14% trimestre su trimestre a livello mondiale. Questo però non significa che si vendano meno PC rispetto a quanti tablet si vendono. Infatti, se prima abbiamo detto che sono circa 50 milioni di tablet venduti a livello mondiale, i computer nel primo trimestre del 2013 venduti sono stati superiori a 76 milioni di pezzi. Quindi potremmo dire che, nonostante i due mercati vadano in direzioni opposte, quindi i tablet crescono, i computer diminuiscono, la quota di computer venduti nel mondo è ancora superiore a quella dei tablet. Guardiamo ai brand, alle marche. Se noi guardiamo a livello mondiale, poi diamo un'occhiata anche a livello italiano, quali sono i marchi più venduti nell'industria dei PC e come cambiano anche i rapporti di equilibrio? Quasi tutti i marchi stanno subendo forti contrazioni nelle vendite. Esistono solo poche isole felici, mettiamola così, che non stanno subendo il peso della crisi economica globale. Chi vende più macchine, più personal computer a livello mondiale è e continua a rimanere HP con quasi 12 milioni di pezzi nel primo trimestre, anche se in calo di oltre il 20%, quindi comunque un calo superiore a quello che è stato il calo del mercato. A guadagnare da questo punto di vista è stato soprattutto Lenovo, che è ormai da qualche trimestre la seconda forza per quanto riguarda la vendita di personal computer. Potremmo dire che HP e Lenovo sono quasi prime a pari merito. Quasi prima pari merito, assolutamente. Abbiamo 12 milioni di pezzi per quanto riguarda HP e poco meno di 12 milioni per quanto riguarda Lenovo. Al terzo posto abbiamo Dell e a seguire abbiamo Acer e Asus per completare la top 5. Sì, che sono un po' distanziati. E il mercato italiano invece com'è? Se guardiamo a livello complessivo, i nomi sono bene o male gli stessi, abbiamo delle differenze però nelle posizioni. Mentre rimane al primo posto comunque HP, Lenovo non è più la seconda forza, ma diventa la quarta forza, pur facendo risultare una crescita inaspettata considerando la situazione di mercato, perché cresce del 100% rispetto a un mercato che cala del 27%. HP ha un calo del 30%, al secondo posto abbiamo Asus, al terzo Acer e al quinto posto a completare le prime 5 posizioni vediamo Apple. E questa è la situazione del mercato italiano rispetto al mercato dei PC, dei computer sia fissi che portatili. Abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. E Iniziamo da Facebook, che ha annunciato di aver raggiunto 751 milioni di utenti mobili sul 1.100 miliardi di iscritti al social network. Gli utenti da smartphone e tablet sono aumentati del 54% in un anno e oggi i ricavi del segmento mobile rappresentano per Facebook un terzo del totale, comunque in crescita del 23% rispetto all'ultimo trimestre. Un po' tutti in tutto il mondo stanno concentrando le proprie forze sul mercato mobile, che è rappresentato dagli smartphone in primis, ma anche dai tablet. Facebook ha anche fornito dati sul numero di utenti di Instagram, che sono cresciuti dai 22 milioni di un anno fa, quando Instagram è stata acquistata da Facebook, e oggi sono diventati 100 milioni. Quali sono gli altri social network che hanno più di 100 milioni di utenti? Allora, ecco la risposta, questi sono i principali. Iniziamo con uno che è sconosciuto pressoché in Italia, si chiama Line, è conosciuto soprattutto in Asia, ha 150 milioni di utenti, LinkedIn 160, Twitter 200, WhatsApp oltre 200 milioni, Zynga 232, WeChat, anche questo è forte, soprattutto in Asia, 320 milioni e poi, con un distacco amplissimo, c'è Facebook con 1 miliardo e 100 milioni. Notizia importante, perché Intel ha annunciato il nome del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Paul Otellini, che lascerà l'azienda tra un paio di settimane dopo 40 anni di carriera. A partire dal 16 maggio il nuovo CEO, quindi l'amministratore delegato di Intel, sarà Brian Krzanich. Bisogna cominciare a imparare anche il nome. Krzanich ha 52 anni, lavora in Intel dal 1982. Ricordiamo che Intel è il più grande produttore di chip in silicio al mondo e sicuramente sotto la nuova guida di Krzanich dovrà inventarsi qualche cosa per essere più forte in un settore fondamentale come quello del mobile, cioè tablet e smartphone. Ebbene, concludiamo questa prima parte di 2024. Tra poco Simone Zanardi con un altro ospite. Ciao Simone, già abbiamo giunto il tempo di salutarti. Ciao Enrico. Simone Zanardi, parleremo di sistemi per archiviare i nostri file online. Chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, sono le 16:05, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24. Tra pochi secondi vi spiegheremo più nel dettaglio di che cosa ci occuperemo in questa seconda ora del nostro programma. Visto che ve l'avevo annunciato, vi do le altre coordinate per raggiungerci. Allora, sicuramente gli SMS 349 238 6666. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che quello che abbiamo detto poco fa sulla capacità e la possibilità di riconoscere le persone che scrivono su internet vale anche per gli SMS, quindi un'offesa, una minaccia o qualsiasi altra frase illecita che costituisce reato fatta su SMS, anzi più facile via SMS che con internet, a meno che poi uno usi carte di identità false, però qui andiamo sul complesso ed è un argomento che trattiamo, abbiamo trattato in altre puntate di 2024. Dunque, c'è anche la nostra pagina Facebook, cercate 2024 su Facebook, oppure potete contattarci anche tramite Twitter @_Pagliarini, questo è il mio account. Adesso chiediamo l'account di Simone Zanardi. Ciao Simone, bentornato. Ciao, ci siamo salutati prima. Tu sei su Twitter? Domanda trabocchetto. No, non sono su Twitter. Perché c'era già un Simone Zanardi. Sì, no, ce ne sono parecchi. Una fregatura di queste cose che poi ti fregano il nome. Senti, allora, Simone Zanardi lavora a PC Professionale, si occupa anche di networking, di storage online, quindi di sistemi di archiviazione. Dunque, diciamo subito che oggi vogliamo occuparci, fare la seconda puntata rispetto a quella che abbiamo fatto qualche settimana fa, dedicata al salvataggio dei nostri dati su sistemi locali, quindi su un NAS che noi abbiamo in casa. Avevamo promesso ai nostri ascoltatori, visto il numero di domande, che ci saremmo occupati anche dei sistemi che stanno diventando sempre più popolari per archiviare dati online su internet. probabilmente molti conoscono Dropbox, che è stato forse uno dei primi a lanciare questo sistema, questo servizio. Ma spieghiamo insomma di che cosa stiamo parlando, Simone. Sì, si tratta di servizi che, diciamo, dal punto di vista tecnico possono essere appunto individuati come servizi di storage online. Sono una sorta di branchia di quello che è il grande sistema degli servizi che tentano o comunque si impongono per replicare l'hardware e il software, fornendolo agli utenti, come si dice in gergo, as a service, no? Quindi in questo caso è come servizio. Esatto, in questo caso è storage as a service, e quindi essenzialmente sono dei servizi che mettono a disposizione degli utenti dello spazio sul cloud per immagazzinare i dati dell'utente. A che fine? Beh, i fini sono diversi, sono più o meno quelli che potrebbero essere i fini di un normale hard disk che noi abbiamo in casa: il backup dei dati, quindi la copia di sicurezza dei dati che noi abbiamo sulle nostre macchine, la condivisione di questi dati, di questi file, non solo con i nostri amici o con i nostri conoscenti o con i nostri compagni di lavoro, ma soprattutto tra i dispositivi di cui disponiamo, perché uno dei grossi problemi che è sorto col moltiplicarsi dei dispositivi e con l'arrivo dei nuovi dispositivi mobili, tablet e smartphone, è che oggi anche la singola persona spesso dispone di più di un dispositivo: il computer, lo smartphone e il tablet, e ha la necessità di avere gli stessi dati presenti contemporaneamente su tutti i dispositivi e sincronizzati, cioè sempre aggiornati tra di loro. Chiaramente queste procedure di sincronizzazione possono essere fatte offline, ma come vedremo, da un certo punto di vista, avere uno spazio sulla nuvola dove noi mettiamo i nostri dati e poi tutti i dispositivi accedono a questo spazio condiviso semplifica l'utilizzo dei dati tra i vari, appunto, terminali. Sì. Senti, questi servizi servono principalmente per avere a disposizione i nostri dati in qualsiasi momento, quando naturalmente è possibile collegarci alla rete internet, però dobbiamo dire che oramai, vista la pervasività delle reti di telefonia cellulare, anche se non abbiamo a disposizione un cavo o comunque un collegamento fisso, che sia ADSL o per i più fortunati fibra, oppure un wifi, eccetera eccetera, ma la disponibilità di internet è piuttosto ampia. Allora, servono principalmente per avere a disposizione questi file, quindi sincronizzandoli anche su vari strumenti, o per salvare e quindi fare il backup dei nostri dati? Cioè, la finalità principale qual è? Diciamo che sulla carta entrambe le cose. I servizi poi si specializzano in base al provider o sul backup o sulla sincronizzazione, e qua in base appunto ai fornitori di servizi possono essere più o meno orientati su entrambe le cose. Per esempio Dropbox, che come tu giustamente hai detto è stato, diciamo, il provider che ha aperto un po' la scatola, nel senso che è stato il primo a imporsi come strumento molto user friendly, Dropbox per esempio è più orientato alla sincronizzazione che al backup. Ovviamente poi si può essere visto anche come uno strumento di backup, perché come vedremo ha dei servizi di versioning per cui conserva i dati anche dopo le loro modifiche, puoi recuperare vecchie versioni dei tuoi dati, dei tuoi file, però diciamo l'utilizzo principale è la sincronizzazione. Altri servizi molto noti come Mozi o anche lo stesso Amazon, su cui Dropbox peraltro si appoggia, possono essere più utilizzati per il backup puro, quindi per offrire un servizio di copia di sicurezza dei propri file. Quindi entrambe le cose. Sì, senti, questi servizi sono, ça va sans dire, direi, disponibili anche per terminali mobili. Assolutamente. Cioè per il computer, per il tablet, per gli smartphone, eccetera, eccetera. Potremmo quasi dire che comunque l'avvento dei terminali mobili è stato uno, non dico il principale, ma sicuramente uno dei principali motivi di successo di questi servizi. Perché se noi pensiamo ad esempio ad Apple, che poi comunque ha fatto dei passi avanti dal punto di vista dell'apertura, ma che nasce come sistema un po' chiuso, non è banale trasferire dati e file da computer a un iPad o un iPhone. Dropbox per esempio, appunto, per citare ancora lui, offre dei client nativi per i sistemi Android, iOS, e rende molto semplice la condivisione dei file proprio verso i dispositivi mobili. Tanto è vero che tantissima gente, anche se potrebbe tranquillamente collegare il proprio tablet e smartphone al PC con il cavetto USB, tanto per parlarci, trova più comodo, io per primo, utilizzare Dropbox anche come sistema appunto per trasferire o comunque condividere i dati che ha sul computer sui terminali mobili. Quindi direi che l'aspetto mobile, i terminali mobile sono uno dei principali motivi di successo di questi servizi. Senti, hai citato Dropbox, quali sono gli altri più famosi, più noti? I soliti noti. Che, oltre a Dropbox citiamo tre aziende che, guarda caso, sono comunque un po' con le mani in pasta ovunque: Microsoft, Google e Amazon. Sono per esempio tre nomi molto forti. Amazon, tra parentesi, che fornisce i server su cui si basa Dropbox. Poi ci sono SpiderHawk e SugarSync, che sono due servizi un po' meno noti a base statunitense. Anche in Italia, come vedremo, si sta muovendo qualcosa, sia dal punto di vista delle aziende che offrono servizi di cloud storage, sia dal punto di vista dei provider mobili che offrono le proprie soluzioni. I principali, diciamo, che sono questi, ecco. Sì. Poi lo citiamo perché se ne è parlato molto quando è stato lanciato dal famoso Kim.com, che è stato il creatore di Mega Upload, Mega Video, eccetera eccetera. È stato lanciato un sistema di storage online che si chiama Mega. In questo caso stiamo parlando di un servizio australiano, perché quasi tutti quei servizi che tu hai citato sono americani. Sono quasi tutti americani, ma quelli che ho citato praticamente tutti americani. Diciamo che Mega è appunto all'inizio del .com, è abbastanza, è giovane, perché di fatto è stata lanciata a gennaio. È un pochettino presto per capire un po', definirla pieno. Sicuramente ha degli elementi che richiamano quelli dei servizi già citati. È ancora un po' immaturo da certi punti di vista, non fornisce ancora i client per nativi per Android, iOS, quindi si accede ai file via web, e la grande, non tanto preoccupazione, ma quello che va capito è un pochettino come si ponga tra i servizi di cloud storage tradizionali e i vecchi servizi Mega Upload, che di fatto erano servizi di storage online, ma di fatto poi sono cresciuti permettendo agli utenti di condividere contenuti spesso che violavano norme di copyright illegali. Esatto. E poi d'altra parte questo motivo è stato il motivo per cui poi Mega Upload è stato chiuso. Il signore che l'ha creato ha dovuto scappare, come dicevi te, per lì di australiani. Sì, no, lui abitava in Australia. Che sì, sì, intendo Stati Uniti... con i propri server, anche aprendo. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione, ma per il momento tutto è fermo. In effetti, insomma, su Kim.com, su Mega si potrebbero aprire molti capitoli. Un'ultima domanda prima del traffico. Prima di ascoltare le informazioni sul traffico, sono servizi prevalentemente gratuiti o a pagamento? Come stanno le cose? Sono quasi totalmente servizi che offrono uno spazio, una capacità di storage base gratuita, che varia dai 2 ai 7 GB gratuita, quindi ci si iscrive e gratuitamente si ha diritto a questo spazio di storage. E tutti, d'altra parte, offrono a canone mensile o annuale più spazio o più servizi pagando una quota. Oltretutto, sulla scia di Dropbox, molti di questi servizi permettono di incrementare la quota gratuita portando nuovi utenti. Quindi io presento un altro utente a Dropbox e guadagno mezzo giga in più per ogni utente che presento. Un grande classico della rete. Esatto. Chi non utilizza internet, ad esempio, questa cosa non la sa. Sì, sì, sì. Dunque, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci. Molti dei nostri ascoltatori ci vorranno chiedere, ma magari chiamateci anche proprio per porci questa domanda che sto per fare. Molti vogliono chiedere, ma sono sicuri questi sistemi? Arriveremo anche a questo punto. 800 24 00 24, a tra poco. 2024. Riprende questa puntata di 2024. Oggi parliamo, in questa seconda parte, dei servizi per salvare file online. Abbiamo citati alcuni, il nostro ascoltatore ci segnala, però se ci mettiamo a segnalare non finiamo più, perché la lista di questi servizi comunque è abbastanza lunga, ma questo lo segnaliamo perché nasce all'interno del mondo Linux, anche se poi è rivolto ad altri sistemi operativi. Ubuntu One, che è un servizio di questo genere. Simone, stiamo parlando di servizi che sono indipendenti dal nostro sistema operativo, o io devo avere un particolare sistema operativo, che ne so, se ho Apple devo usare quei servizi, se ho Windows devo usare quei servizi, se ho su un tablet Android devo usare quell'altro, o sono interoperabili? No, sono, diciamo, la risposta è sono interoperabili. Mettiamola così, fatto salvo iCloud, di cui non parliamo oggi perché è un senso un po' particolare di Apple, gli altri servizi offrono come minimo una interfaccia per caricare e scaricare i file tramite web. Vuol dire che aprendo il browser dei nostri sistemi operativi, qualsiasi siano mobile o fisso, noi possiamo accedere a una pagina internet dove abbiamo tutti i nostri file, possiamo caricare e scaricare. Dopodiché, se noi installiamo sulla nostra macchina fissa o mobile un client, questo ci semplifica l'interazione con lo spazio di storage e soprattutto può integrare il servizio di storage online col sistema operativo, rendendo più facile l'integrazione. Qua poi dipende, diciamo che tutti i servizi che citiamo di fatto offrono perlomeno i client per Windows, Mac, Android e iOS. Molti per Linux o client nativi o tramite terze parti che li sviluppano si stanno, è presumibile che nel corso dei prossimi mesi vedremo i client perlomeno per Windows Phone 8 e perlomeno per BlackBerry. Sì. Senti, ti faccio una domanda, poi sentiamo un nostro ascoltatore. Tu hai detto, allora, questi servizi permettono di accedere da qualsiasi terminale, anche da terminali non nostri, magari c'è un computer in un albergo, io posso accedere alla mia cartella su un servizio di questo genere con i miei file, con la password, eccetera. Quindi posso prendere un documento, una fotografia, eccetera, eccetera. Ma la stessa cosa non la posso fare con il mio disco di rete a casa? Io lascio acceso il disco di rete a casa, ho salvato e backuppato tutti i miei dati lì, con il collegamento ad internet ci sono molti di questi NAS, comunque questi dischi di rete, che mi permettono di accedere anche in remoto. Qual è la differenza? Perché io poi nessuno deve fare niente, però perché ci sono questi servizi? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Beh, diciamo che il NAS è una soluzione, innanzitutto, che richiede un pochettino più di esperienza di configurazione, perché richiede una minima conoscenza di cosa vuol dire installare una rete in casa. La differenza pratica, quando io salvo i miei file su un NAS, quindi su un disco che risiede nella mia rete locale, posso, perché tutti i NAS oggi lo permettono, posso rendere accessibili i file anche da remoto. Cosa succede? Essendo i file collocati comunque a casa mia o nel mio ufficio, nel momento in cui io li richiedo da remoto, il file deve transitare da casa sulla rete e poi dalla rete a dove lo sto richiedendo. Sui servizi di accesso che tipicamente si usano in Italia per l'accesso a banda larga, cioè la DSL, questo significa che noi stiamo usando la nostra ADSL di casa in uplink, cioè mandando dati verso la rete. Spesso le ADSL sono molto meno performanti quando il traffico va in questo senso. Se invece i file sono già stati caricati online, per esempio su un servizio di storage cloud, a quel punto la mia DSL non entra più in gioco, semplicemente entra in gioco il download tramite il mio terminale, che può essere via rete mobile o tramite una connessione wifi, e in questo caso tutto ciò si traduce in una più alta velocità di scaricamento dei file. Sì, poi possiamo fare anche un discorso sulla sicurezza e lo faremo tra poco. Quindi mettendo a confronto la soluzione per salvare dati in locale sul nostro disco di rete e la soluzione invece utilizzando questi servizi. Saluto Marco da Verbania. Buongiorno Marco, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie per l'ospitalità e grazie per la trasmissione. Grazie. Volevo solo chiedere una cosa, siccome io sono collegato a Libero e collegarmi a scaricare i file sul cloud, mi hanno chiesto di scaricare un client sulla mia macchina, e questo su una macchina di Windows è possibile farlo, ma utilizzando un altro sistema operativo mi hanno detto che proprio non esisteva il client per Linux. Un'altra cosa, se poi io accedo a una rete dove non sono amministratore, posso scaricare lo stesso client o non posso? Un'altra cosa, ma perché è necessario scaricare un client? Non era possibile fare come per la posta elettronica un ID e una password e tutto finiva lì? Perché hanno complicato la cosa facendo scaricare un client? Bella domanda. Grazie Marco per questa, questo tema che effettivamente è molto interessante. Simone, perché devo scaricare, questa poi diciamo riassumerei le domande in questa fondamentalmente, certo. Perché devo scaricare un client? Client è un programmino che io scarico sul mio computer o sul mio terminale, sul terminale mobile, ad esempio è un'applicazione per poi riuscire ad accedere a questo servizio, mentre invece la posta elettronica è direttamente online con la password, vada come l'home banking, direttamente online. Sì, diciamo tutto. Che da questo punto di vista si può fare un buon paragone con la posta elettronica. Allora, installare un client significa, tenendo il parallelo con la posta elettronica, è l'equivalente ad installare un programma di posta elettronica, no? Ad esempio Outlook, per esempio, no? Invece non installarlo vuol dire accedere allo spazio di storage come noi accediamo a una webmail, cioè abbiamo una pagina internet con i nostri credenziali, noi accediamo e vediamo la posta sulla pagina internet, tipicamente Gmail, per fare un esempio. Perché installare? Io ti potrei rispondere tipicamente Yahoo. Oh, Yahoo, ok. Sì, sì, sì. Hai ragione. È una battuta. No. Comunque, diciamo che perché installare il client? Installare il client perché tipicamente rende più facile l'utilizzo. Il bello di Dropbox, per esempio, è se si installa il client, io ho una cartellina chiamata Dropbox e tutto quello che sposto in quella cartellina automaticamente viene sincronizzato con il cloud. Se io non installo il client Dropbox, nessuno mi proibisce di accedere a Dropbox tramite web, però a quel punto non ho una sincronizzazione automatica, ma devo dire esplicitamente i file che voglio caricare e scaricare. Sinceramente, in questo momento non ho ben chiara la situazione di Libero di Wind, quindi non so se Libero, con il nostro utente Marco, si riferisse a un proprio servizio di cloud o ad altri servizi. Se si riferiva a servizi come Dropbox, non è necessario assolutamente installare il client. È una procedura che rende la vita più facile. Per la cronaca, il client di quasi tutti questi sistemi, l'ho già detto ma lo ripeto, è disponibile per Windows, Mac e Linux. Se invece stiamo parlando di un servizio particolare, può darsi che sentiamo non... Marco che magari ce lo dice. Marco, certo. Sì, è un allora servizio... se uno, un'altra domandina, se no, uno vabbè, non, adesso, non ne faccia delle altre domande, no, ci risponde. Allora, a questo Libero, era Sugar, quello che si chiama Sugar e così via, Sugar Sync, sì, sì, che è integrato in un'offerta di Libero. Come sì, no. Fa a caricare il client? No, ecco, questa stavo per rispondere, sì, sì, però... questa è la seconda domanda, rapidissima. Certo, il client è un software, è un programma, quindi se uno non è amministratore della macchina non può installarlo. Non può installarlo, perché come tutto, insomma. Esatto. Bene, adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità. Poi avremo un altro ospite, visto che abbiamo citato molti servizi, abbiamo detto una cosa che non abbiamo detto a caso, abbiamo sottolineata che quasi tutti questi servizi sono americani. Tra poco sarà con noi Marco Trombetti, che è amministratore delegato di Memopal, che è un servizio italiano ed è importante non solo perché è italiano e noi diciamo facciamo il tifo per le aziende italiane, ma anche perché sul dove risiedono i dati, questo è un argomento molto importante. Il nostro numero verde 800 24 00 24. Ci risentiamo tra poco. 2024. Le 16 e 28 minuti, questo è 2024, stiamo parlando di sistemi per archiviare online i nostri dati. Allora, stiamo parlando di un tema estremamente importante perché noi tutti i giorni produciamo una quantità incredibile di dati, di file digitali, chi più, chi meno, però facciamo delle fotografie, creiamo documenti, salviamo qualsiasi altro genere di file sul nostro computer o sul terminale mobile. Questi dati, se sono dati che vogliamo mantenere, devono essere protetti, archiviati, backuppati e in questo caso con un backup molto più efficiente e efficace online. A tal proposito volevo chiedere a Simone Zanardi, possiamo dire che questi servizi sono più sicuri? Beh, in generale potrei domandarti, sono sicuri sì o no? Però diciamo la risposta è sì, mica stiamo parlando di cose non sicure, ma sono più o meno sicuri rispetto al backup che possiamo fare in casa nostra sul nostro disco di rete? Adesso noi diciamo disco di rete, uno può farsi il backup anche sul disco del computer, ma se poi si pianta, arrivederci, grazie. La domanda da $1 milione, letteralmente. Ah, sì. Per vari aspetti sono più sicuri, per vari aspetti meno sicuri. Mettiamola così. Quasi tutti i servizi offrono un sistema di trasferimento dei dati cifrato, non a prova di bomba, nel senso che nessuno dà la sicurezza al 100%, ma è ragionevole dire che mentre trasferisco i dati sono cifrati durante la trasmissione. in alcuni casi è anche garantito la cifra, la cosiddetta cifratura dei dati a riposo, cioè i dati residenti sui server delle macchine sono a loro volta criptati. Poi quando si dice più sicuro quello che salvo a casa mia, dipende. Sicuramente sono abbastanza convinto del fatto che i server che utilizza Dropbox e Amazon sono un pochettino più robusti del dischettino che abbiamo a casa noi, quindi per esempio da questo punto di vista sono più sicuri questi servizi, cioè tipicamente una server farm di Amazon ha un sistema di protezione di affidabilità più alto. Certo, i dati vanno fuori da casa nostra. Il rischio che questi servizi perdano i nostri dati è veramente remoto, in tutta onestà. C'è il problema del disservizio, cioè un momento in cui il nostro dato non è accessibile. Beh, questo è un problema che può presentarsi. Quasi tutti i servizi garantiscono una percentuale minima di disservizio. E poi, da ultimo, c'è il problema della privacy, cioè questi dati possono cascare nelle mani di qualcun altro. E qua la risposta è lunga, però ci tengo a dirlo subito: nessuno ci proibisce di cifrare i dati che noi mandiamo sul cloud prima di inviarli sul cloud, quindi prima di mandarli su noi li cifriamo, poi vedremo come, c'è un paio di sistemi. Sì, abbiamo fatto anche una puntata dedicata a questo, magari la rifaremo anche, perché questo è un altro tema molto interessante. Se vogliamo usare questi servizi, magari per aumentare la sicurezza possiamo cifrare i nostri dati. Saluto Marco Trombetti, che è amministratore delegato e è stato uno dei fondatori di Memopal. Benvenuto Trombetti. Buonasera Enrico, buonasera Simone. Dunque, ti facciamo subito una domanda, quella da un milione di dollari o di euro che faceva, insomma, a cui rispondeva Simone Zanardi. Questi sistemi sono sicuri? Poi parliamo anche di Memopal e spieghiamo bene di che cosa si tratta, però si tratta di un servizio per fare backup di file online. Sicuri, e quanto sicuri questi sistemi? Beh, intanto quando parliamo di sicurezza ci dobbiamo ricordare che parliamo di due cose diverse, no? Della privacy e poi della protezione dei dati, cioè quanto è sicuro che non perderò i miei dati. Allora, la domanda mi sembrava incentrata su privacy, quindi quanto ci assicuriamo che altri non possano accedere a questa informazione. E questo punto qui io credo sia un punto dove il cloud storage è sicuramente qualcosa che sta evolvendo rapidamente e probabilmente sta diventando anche il mezzo più sicuro per questo. Sicuramente partiamo dal concetto che spostando i dati nel cloud non risiedono più nel nostro computer, nel nostro backup, nel nostro disco di casa. Tuttavia la quantità di attività che stiamo facendo, che tutto il mercato sta facendo per cifrare l'informazione, anonimizzare e segmentare l'informazione, è qualcosa che porta a un livello di protezione dell'informazione spesso più alta di quello che si può avere col computer di casa. Cioè lasciare un disco a casa con il backup è comunque poco sicuro per chi ha accesso a quel disco, quindi esattamente come un ladro entra a casa per un furto, può teoricamente accedere ai vostri dati, prendere il disco, portare via il disco di backup e avere accesso a tutti i dati. Questo invece con la maggior parte, per dare un esempio semplice, la maggior parte dei sistemi di cloud invece cifra le informazioni, come diceva Simone, quindi durante il trasferimento, ma in più poi fa dei processi di anonimizzazione, cioè il dato arriva e viene separato il proprietario e il nome del file, il path, il computer, tutte le meta informazioni si chiamano, con il contenuto del file. E poi questo file, prima di essere scritto sullo storage, viene in alcuni casi cifrato da alcuni, e poi spieghiamo anche cosa significa questa differenza, ed alcuni invece come noi viene segmentato, cioè viene spezzettato in più pezzi il file e scritto su dischi diversi. Questo fa sì che un malintenzionato che arrivi a avere accesso all'infrastruttura, se porta via un disco o accede a un certo server, troverà solo un'informazione anonima, quindi non saprà di chi è il proprietario di quel file, e parziale, quindi non sufficiente per rimettere insieme tutta l'informazione. Queste cose qui, a nostro avviso, stanno rendendo il cloud storage forse più sicuro, potenzialmente, di averli in tasca i dati. Quindi queste sono le differenze. Sì. Simone parlava cifratura sì. Fatta con chiave privata. Quello è sicuramente il modo più sicuro che c'è per non consentire a nessuno di accedere a quell'informazione, però è anche il più limitante, cioè una volta cifrata l'informazione con una chiave privata che conosce solo l'utente, non si potrà accedere via web ad esempio al contenuto, non si potrà fare condivisione del contenuto, perché per decifrare l'informazione molto probabilmente servirà un altro software residente sul computer. Sì, sì, oppure ci sono anche dei sistemi con delle chiavette, però bisogna girare con la chiavetta, chiaramente. Trombetti, una domanda che riguarda più che altro il mercato. Noi abbiamo più volte detto che questi servizi, attualmente il mercato è dominato da aziende americane. Voi siete un'azienda italiana, e poi spieghiamo anche l'importanza del luogo dove risiedono i dati, ma questo di questo ne parleremo tra poco. Quale spazio c'è in questo mercato appunto dominato dagli statunitensi? No, io non vedo nessuna limitazione a fare un business globale di successo in Italia. Noi avete citato alcuni nomi, okay? Dropbox, un prodotto di Sync ed è il leader di mercato assoluto, un prodotto eccezionale che ha vinto 150 milioni di utenti, è decisamente il prodotto di successo. Poi ne abbiamo nominati ancora, sono SugarSync e Backblaze. Memopal qui in Italia compete molto molto bene con tutti, con Backblaze, con SugarSync, con SpiderRock, e tant'è vero che ha i contratti forse più importanti al mondo, cioè il prodotto italiano Memopal è venduto in bundle con tutti i dischi di Western Digital e Hitachi, che è il maggiore produttore al mondo di dischi fissi. Quindi quando compro un disco esterno per il backup, dentro ci trovo un software che si chiama Hitachi Backup, che in realtà è 100% Memopal. Quindi così siamo stati anche la prima applicazione a essere approvata dall'App Store di Apple per il backup online, credo poco dopo il lancio del primo iPhone. Quindi c'è spazio, insomma. C'è spazio, si riesce. Ecco, veniamo ai dati. Dove risiedono le vostre macchine, i vostri server, i vostri dischi? Allora, inizialmente noi abbiamo, per quello che stiamo facendo, ci siamo diversificati da tutti gli altri. Cioè, gli altri, quasi tutti questi sistemi di cloud, tendono a utilizzare piattaforme di cloud come Amazon o Azure di Microsoft, o cose simili che si chiamano software, ad esempio. Noi invece abbiamo sviluppato tutta la nostra infrastruttura da A a Z, quindi dal data center, dall'hardware, le connessioni internet e i dischi, qui in Italia. Questo è stato per noi forse un rallentamento nella crescita, perché ci siamo dovuti concentrare a fare questo, però ci ha permesso di avere la nostra infrastruttura e quindi dei costi molto più bassi, ma soprattutto consentire di dire all'utente che i propri dati sono vicini a lui, e questo significa protezione, sicurezza, perché sono in un paese la cui privacy, legge sulla privacy, è forse tra le più evolute e stringenti al mondo insieme alla Germania, e in più sono vicini, quindi significa anche latenza, cioè accesso all'informazione più veloce, quindi caricare i file su Memopal e scaricarli probabilmente più veloce che caricarli su un server americano che è dall'altra parte. Sì. Simone, perché abbiamo sottolineato e sottolineiamo, e anche alcuni esperti lo ripetono spesso, è importante il luogo dove questi dati risiedono? È importante tra le altre cose perché ci sono delle normative su cui sarebbe un po' lungo concentrarci, però accenniamo, ci sono delle normative sulla privacy, sull'utilizzo dei dati sensibili anche di terzi, che variano anche in base a dove i dati sono residenti. Quindi se io utilizzo un servizio cloud che sposta i dati per esempio in America, devo sottostare a certe normative per la protezione dei dati appunto sensibili. Questo è un aspetto particolarmente delicato se per esempio sono magari non un privato ma un libero professionista che magari utilizza il cloud o vuole utilizzarlo anche per i propri per i servizi dei propri clienti, quindi che no, sono un avvocato, ho dei dati sensibili non tanto miei ma dei miei clienti, quindi devo star bene attento che questi dati siano al sicuro, e la normativa varia in base a dove risiedono, se risiedono in Italia, in Europa, oltreoceano. Sì. Sì, non ultimo il fatto che questo è noto, le forze dell'ordine degli Stati Uniti possono accedere a questi dati quando vogliono. Trombetti, confermi? confermo. Oggi l'FBI di fatto ha accesso alla maggior parte di queste informazioni. Confermo anche che c'è una storare i propri dati. Se si parla di un'impresa che store dati sensibili fuori dal territorio italiano, dovrebbe probabilmente adattarsi e allargare il proprio statuto sulla privacy con degli accordi che si chiamano i safe harbor, che sono degli accordi che danno delle indicazioni su come i dati possono essere scambiati tra Europa e America. Cioè, sicuramente c'è una complicazione in più, minore controllo da parte dell'impresa italiana e europea in generale, nella terra America. Sì. Poi ricordiamoci anche che affidarsi ad Amazon o a terzi, piattaforme eccezionali, però è una malleva continua, quindi significa non avere più un fornitore che risponde direttamente, ma questo fornitore poi fa malleva delega le responsabilità ad Amazon e di seguito si fanno delle malleve a vicenda, per cui poi è difficile avere un interlocutore unico su un aspetto importante. Dunque sentiamo Salvatore che ci chiama da Roma. Benvenuto Salvatore, buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Volevo chiedere se le pubbliche amministrazioni italiane possono usufruire o già usufruiscono di questo servizio e se questo quindi ha un'offerta diversa, garanzie maggiori per le pubbliche amministrazioni. Grazie Salvatore, buona domanda. Trombetti. Sì, Salvatore, grazie per la domanda. Non conosco i dettagli e quindi come la pubblica amministrazione, quali sono le regole interne che si sia data. Sappiamo che abbiamo molte piccole amministrazioni, specialmente dei comuni, che utilizzano il nostro servizio. Quindi non posso illuminarti su quali siano le modalità e le restrizioni che ci sono, sicuramente ti posso confermare che tante pubbliche amministrazioni lo usano. Ecco, io potevo aggiungere Simone. Ho qua, sarebbe lungo citarlo, proprio qua un PDF con me emanato appunto dal governo italiano con un lungo documento che si intitola Raccomandazioni e proposte sull'utilizzo del cloud computing nella pubblica amministrazione, un PDF parecchio lungo e voluminoso però dimostra che comunque questo aspetto è all'attenzione anche appunto dell'amministrazione. Trombetti confermerà o smentirà. Allora, buona parte delle cose che le pubbliche amministrazioni possono fare o devono fare su internet sono state indicate da DigitPA, che è l'agenzia del governo che si occupa di questi temi, che è stata e sta, diciamo, in questi mesi per essere inglobata e trasformata all'interno di una nuova agenzia nell'ambito della più ampia agenda digitale, di cui speriamo appunto si riprendano le redini. Però insomma la pubblica amministrazione da tempo si occupa di questi temi e quindi le pubbliche amministrazioni locali, periferiche, hanno tutti gli strumenti andandoli a cercare per sapere che cosa devono fare. Simone, ti faccio una domanda. Un nostro ascoltatore, poi vediamo anche se ci sono altre domande al nostro numero verde, però le valutiamo. Però c'è un nostro ascoltatore che dice come si può migliorare la sicurezza. Adesso traduco e riassumo io la domanda. Migliorare la sicurezza facendo una sorta di utilizzo ibrido tra questi servizi e il nostro disco a casa, magari per mille motivi ci è più comodo avere il nostro NAS di rete in casa, però per aumentare la sicurezza facciamo un ulteriore backup online. Ci sono dei servizi, diciamo, che fanno tutto loro, automatizzano, ci semplificano la vita, o dobbiamo smacchinare spostando file di qua e di là? Ecco, diciamo che il mondo del cloud storage non si pone necessariamente in contrasto, in competizione esclusiva col mondo dello storage tradizionale offline. Marco, per esempio, prima citava il fatto che i produttori di hard disk forniscano software come basato su Memopal, no? Questo è un esempio. Nell'ambito NAS, invece, molti dispositivi, molti dischi di rete della rete locale integrano dei client che permettono di sincronizzare automaticamente i dati del mio NAS su un servizio di storage online. Quindi cosa succede? Io salvo i miei dati sul NAS di casa o dell'ufficio e quindi li salvo in locale. Poi il NAS provvede a interfacciarsi con un servizio di backup sincronizzando in automatico i dati che io gli ho caricato, e qui i servizi più diffusi sono anche quelli più supportati dai NAS, quindi Dropbox e Amazon tipicamente, ma anche Mozi. Quindi diciamo riesco a fare quella che si chiama nuvola ibrida, no? Ho i dati in locale e poi il NAS provvede a fare una copia anche on the cloud. Sì, beh, Trombetti, anche voi con Memopal avete delle soluzioni del genere? Allora, non con il prodotto Memopal in sé per sé, ma proprio quello fatto per i taci, che può essere scaricato dal sito del disco, che è torocloudbackup.com, è appunto un software misto che fa backup nel cloud e nel NAS direttamente. Quindi noi ce l'abbiamo, esistono anche altre soluzioni, e vediamo che anche abbiamo in sviluppo anche per un grande produttore di NAS una tecnologia per fare il backup del NAS stesso, quindi senza dover avere nessun software installato nel computer. Bene, ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Le 16:46 minuti, sentiamo Giovanni che ci telefona da Treviso. Giovanni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, ciao. Prego. Niente, io volevo parlare un attimo del discorso cloud, cioè come effettivamente il cloud poi possa convivere con una tutela reale della privacy, perché io per esperienza personale so che anche se ci vuole un magistrato per entrare nei dati personali di uno di noi, che nelle tracce che lasciamo nella rete, so che poi operativamente parlando quotidianamente non è poi così impossibile che le forze dell'ordine arrivino in qualche modo a capire dove siamo stati, cosa abbiamo guardato, eccetera eccetera. Quindi volevo capire come il cloud poteva tutelare. Sì, allora ti fermo un po' perché secondo me stiamo andando un po' fuori argomento. Allora, il tema è bellissimo ed è importantissimo, però direi che riguarda più puntate che abbiamo dedicato, tipo quella della settimana scorsa, alla tutela della privacy in sé, piuttosto che un servizio come questo, di questo genere, diciamo, e con gli interlocutori che abbiamo oggi che possono rispondere dal loro lato. Non so se Trombetti vuole dire qualche cosa, però direi che andiamo un po' troppo lontano. Solo una frase. Sì. Il cloud rappresenta un'opportunità per tutti, per fare le cose in maniera molto più rapida, molto più snella, a costi più bassi. E accanto porta dei rischi, e quello della privacy è un rischio, quindi l'importante è saper gestire il rischio, a mio avviso, e è complessivo, non è semplicemente l'autorità che abbia accesso ai dati, è complessivo, uno deve mettere sul piatto i benefici, sì, che sì, ne può avere con i rischi. Sì, comunque devo dire, Giovanni ha sollevato un aspetto importante, anzi noi ci teniamo il telefono di Giovanni, lo contattiamo nei prossimi giorni perché magari approfondiamo e possiamo costruire anche una puntata, una parte di una puntata. Dopodiché, chi ha remore di questo genere, che sono legittime, in alcuni casi anche ovvie, ce le aspettiamo, giustificate per tanti versi, può anche decidere di non utilizzare questi servizi, però si arriva poi al punto di fare quello che stanno facendo alcuni, che dicono: non utilizzo il cellulare perché se volendo si sa dove Simone Zanardi è andato oggi con il cellulare. Simone, volevo dire una cosa rapidissima proprio al volo. Non confondiamo il problema della sicurezza e della privacy. Adesso io non voglio difendere il cloud, però guardiamo le cose come stanno. Come abbiamo detto, si possono sempre cifrare i dati all'origine, si rinuncia un po' alla facilità di condivisione, ma i dati li mandiamo su già criptati. Ricordiamoci che certe norme valgono sul cloud e fuori dal cloud. Se io mi salvo i miei dati sensibili sulla chiavetta USB, me la metto in tasca, esco di casa e perdo la giacca e i dati non sono criptati, la chiavetta USB l'ho persa e i dati, sì, il primo che li trova li prende. Sì, sì. Collegato a questo tema c'è anche quello della cancellazione sicura dei dati, di cui ci siamo occupati, e potete andare a riascoltare quella puntata, c'è da divertirsi. Dunque sentiamo Fabrizio della provincia di La Spezia. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Prego. Allora, io sono un dirigente scolastico e mi sono posto anch'io il problema. Io attualmente nella scuola, potete immaginare tutti i problemi che ho di privacy, dati sensibili, ragazzi disabili, voci, eccetera, eccetera. Attualmente io ho un server che però insomma, un servizio che mi costa abbastanza perché va sui, mi sembra sui 300-400 euro l'anno, che volevo dismettere. Mi sono posto il problema del cloud, soprattutto anche legato al luogo fisico dove si trovano i dati, perché per esempio un server a Aruba, per fare un nome, dove sono, in quale nazione del mondo, una società privata. Quindi insomma avere un servizio che mi garantisce rispetto di certe norme, soprattutto che i dati sono conservati in Italia, potrebbe già essere già un mito di garanzia. Ecco, non risolve tutto, ma è già una garanzia. È chiaro che io non metterei i miei dati in un server in un paese sconosciuto. Sì. Ho sentito che ci sono, c'è qualche servizio, purtroppo poi non l'ho sentito tutta la trasmissione. Vabbè, c'è il podcast, se la puoi riascoltare. Sì? Sì, sì. No, Fabrizio, lei dice una cosa corretta, effettivamente solleva un tema molto importante e come abbiamo detto insomma più volte in questa puntata, bisognerebbe sapere, quindi le aziende che offrono questi servizi dovrebbero garantirci e comunicarci, poi ci dobbiamo fidare naturalmente, ma questo vale un po' per tutti, anche vale con la banca, una delle cose più vecchie con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni, noi affidiamo cose e dobbiamo fidarci che poi quella banca tratti i nostri soldi in un certo modo, e non sempre è così, lo abbiamo visto. Simone, vuoi aggiungere qualcosa su questo punto? Oppure... Su questo punto, onde evitare di fare pubblicità a terzi, fare rispondere a Marco, visto che cercava un servizio con server sì, in Italia. Vabbè, diciamo che abbiamo detto tutto, Trombetti. Io avrei una ulteriore domanda, visto che cito il caso di Telecom Italia, che ha da poco cominciato ad offrire un servizio di archiviazione online, quindi di cloud, si chiama TE Cloud, per i propri clienti con la DSL. So che ci sono società che offrono sistemi antivirus che cominciano a offrire anche la parte di archiviazione online dei propri file. È una tendenza, e la vedremo sempre più spesso nei prossimi anni, quella di offrire questo tipo di servizi come aggiunta ad altro, cioè diciamo in aggiunta ad un servizio base? Sì, allora l'antivirus ha l'obiettivo di proteggere il nostro computer dai virus. L'estensione naturale di questa cosa è proteggerlo dalla perdita del computer, dalla rottura del computer. Quindi sono due prodotti che vanno veramente a braccetto. Metà delle società, diciamo metà delle top 10, quindi 5 su 10 più grandi società antivirus al mondo hanno già fatto partnership o acquisito una società di backup per aggiungerla al proprio prodotto, non so, Norton, quindi Symantec, la società che produce Norton, ha Norton 360, che è un prodotto misto antivirus e backup online. Noi, Menopal, fra qualche settimana annunceremo pubblicamente un accordo con uno di questi cinque produttori più grandi al mondo, e quindi avremo questa offerta congiunta con brand del cliente direttamente, quindi sempre con brand del prodotto antivirus, e penso che entro due anni tutti i produttori succederà questo. Un'altra domanda sempre sulla sicurezza e le garanzie, perché giustamente molti ascoltatori dicono: ma io che garanzie ho, al di là del sapere dove risiedono i file, che questi file siano protetti adeguatamente e soprattutto che rimangano salvati? Cioè, se perdete i dati cosa succede? Cioè, che tipo di garanzie ci sono? Allora, intanto ogni servizio cloud non sarà mai la soluzione definitiva in assoluto per lo storage dell'informazione, è un'altra forma di backup, quindi in funzione dell'importanza del dato per la persona dovrebbe utilizzare più forme di backup, proteggerselo su una chiavetta, su un disco, sul proprio computer e nel cloud. Noi quello che facciamo è, a differenza di un disco che uno può comprare esterno per fare il backup, che dopo alcuni anni si romperà, naturalmente come essendo un mezzo meccanico, noi offriamo delle garanzie e dei rimborsi in caso di perdere i dati, cioè 3 anni di servizio indietro pagati. In realtà possiamo offrire questa garanzia perché abbiamo fatto dei processi, come anche gli altri fornitori di cloud storage, ma dei processi di protezione dell'informazione. Quindi, a differenza dell'utente, l'informazione non è scritta solo su un disco, ma è scritta su più dischi, e esistono sistemi di monitoring che ci dicono esattamente quando l'informazione, quando il disco sta per rompersi oppure quando un'informazione non è più disponibile su un disco, e quindi sostituiamo il disco quando l'informazione è ancora su altri dischi. Quindi manteniamo solo dei processi che ci garantiscono la continuità dell'informazione. È decisamente molto più sicuro che un backup su un disco unico fatto dall'utente, però non è mai la sicurezza assoluta. Sì, questo è importante e lo diciamo tutte le volte che ci occupiamo di sicurezza. La sicurezza al 100% non esiste. Simone, quanto costano questi servizi? Perché avevo detto c'è tutti, beh, ad esempio Memopal 3 giga ce li dà gratuiti, dopodiché in generale quanto dobbiamo spendere? Ci sono ovviamente una vasta gamma di fasce di prezzo. Facciamo alcuni esempi sulla prima offerta commerciale oltre il gratis, diciamo, no? Si varia dai 10 ai 100 dollari all'anno. Memopal, per esempio, Marco mi correggerà se sbaglio, la prima offerta a pagamento prevede 49 euro all'anno per 200 gigabyte. Dropbox 100 dollari all'anno, 100 gigabyte. Google e Microsoft dai 10 ai 30 dollari per 20-25 gigabyte. Poi ovviamente si può salire a tagli di capacità e a cifre ben più alte. Quindi Marco, cioè se io ho bisogno di più di 200 giga, ci sono altre offerte, cioè posso salire? 200 giga, diciamo sopra questo, sopra, se arriviamo a un terabyte, il cloud, oggi noi dobbiamo bilanciare sempre la quantità di spazio sul computer con le capacità delle linee internet. Quindi oggi avere prodotti di 1-2 terabyte non hanno tanto senso, perché il tempo per trasferire l'informazione potrebbe essere troppo lungo. Invece un prodotto da 200 giga con una buona linea, i dati si backupano rapidamente. Sì. Oh, naturalmente abbiamo, potete capire anche voi ascoltando che il tempo è esaurito, tra poco ci sono le notizie di GR24 e non abbiamo parlato appunto dell'altro tema, cioè del collegamento, e quindi la capacità del collegamento per trasferire i dati, quanto tempo ci si impiega, eccetera, eccetera. Ma magari faremo un'altra puntata. Grazie a Marco Trombetti, amministratore delegato di Memopal. A presto, buon lavoro. Grazie. E grazie anche a Simone Zanardi, che si occupa di questi temi all'interno di PC Professionale. Simone, grazie per essere venuto a trovarci nel nostro studio. A presto e buon lavoro. Ciao Enrico, alla prossima. E buon backup dei tuoi dati. Ok. Bene, grazie a Giorgio De Luca che si è occupato dell'assistenza in regia, grazie anche al nostro centralino e grazie a Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica. Paolo, ciao, grazie per essere stato con noi. Tu mi dicevi, ma si fanno ancora i backup sui CD? Direi di no, direi di lasciar perdere i CD, Simone. No. Fine delle trasmissioni. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche ad Anita Panizza che ci ha aiutato in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're...